Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Antonio, è il mese delle cose, delle viole questo. Delle primule, delle viole. Delle primule, sì, delle viole. Sì. Comunque un sentore di primavera, diciamo. È un sentore, beh, speriamo, sì. Dai, che il tempo si metta a far giudizio almeno. Esattamente, almeno quello. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. E vi ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it. Il numero di telefono per consigli, proposte e suggerimenti è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è possibile anche l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione guidata dal nostro amico regista Eddie e dal nostro coordinatore Mirko. Salutiamo tutti e due. Salutiamo tutti e due e cordialmente. Incominciamo col nostro programma. Stasera abbiamo due ospiti. Abbiamo il dottor Tony Basso che ci parlerà della storia di Treviso e avremo Tiziano Spigariol, il cosiddetto Tabaro. Uomo del Tabaro. Esatto. Allora, prima di introdurre il primo ospite, ci ascoltiamo la prima canzone in programma. Allora, la settimana scorsa, esattamente il 27 di febbraio, appunto, e ricorreva l'anniversario della scomparsa del nostro Claudio Villa proprio durante il Festival di Sanremo dell'87 e così vogliamo un pochino ricordarlo e omaggiarlo con un suo cavallo di battaglia e quindi ascolteremo Granada cantata da Claudio Villa. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le diera amarre alla Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Oh, allora eccoci di nuovo in studio e ci ha raggiunto il primo ospite della serata, che è il dottor Tony Basso. E diamo il bentornato al nostro graditissimo ospite, il dottor Tony Basso, per le sue, diciamo, sempre interessanti spigolature sulla vita trevisana nelle varie epoche. Ecco, abbiamo lasciato, mi pare, la volta scorsa il discorso piantato sull'illuminazione e sulla cucina. Sì. Vale la pena ricordare anche come, a proposito di cucina, a Treviso ci fosse una notevole attenzione verso la cucina e la tavola, con la produzione delle stoviglie in ceramica, che era cominciata ancora nell'Ottocento, ma poi è continuata da parte di alcune industrie. Vorrei ricordare soltanto i nomi di alcune: Fontebasso, certo. Direi una per tutte, Lazar, che c'è. Nomi storici. Sono nomi che hanno segnato la storia della produzione delle ceramiche nella nostra città, per l'attenzione che c'è stato verso questo momento importante dell'aggregazione, certo, familiare intorno alla tavola. Oggi purtroppo ci sono questi pasti veloci, molte volte addirittura fatti senza una tavola, ma sì. Si mangia col boccone in mano per la strada, senza che ci sia quella convivialità dello star seduti assieme intorno a una tavola, che era anche la maniera per trasmettere alle generazioni più giovani le esperienze, le conoscenze, la cultura, che si sono, esatto, acquisite, e anche le cose che io così magari racconto, sono cose molte delle quali che le ho sentite a tavola, a casa mia, parlando Sì, con i miei genitori. Certo. Oggi purtroppo sta perdendosi questo gusto dello stare insieme a tavola e di parlarsi, perché c'è anche la televisione sempre in cucina. Questo è un dramma. Questo è un elemento che, pur con tutti i benefici che porta la televisione, perché non voglio demonizzare tutto, ma certamente ci sono dei valori che vanno perduti. È l'uso improprio che se ne fa, magari, diciamo. E poi proprio a tavola, insomma, si sentono a quell'ora in cui si mangia tutte le disgrazie di cui è affitta la nostra società, dalla delinquenza alla vita politica, che certamente non sono dei buoni accompagnatori dei nostri pasti. Non sono edificanti. No, direi proprio di no. Tornando al vivere della nostra società trevigiana di inizi Novecento, sarà il caso anche di ricordare come questo periodo che precede la Prima Guerra Mondiale, periodo che viene anche denominato della Belle Époque, sì, e che vede anche nelle arti figurative l'affermarsi di quello stile floreale, liberty, che caratterizza molta della produzione artistica di quell'epoca, dalle arti figurative al teatro, allo spettacolo, e troviamo moltissimo in quest'epoca l'affermarsi di manifestazioni di tipo festoso, il carnevale che si viene celebrato in piazza. Per esempio, c'è un'immagine che mostra la loggia dei cavalieri, che era fino agli inizi del Novecento era adibita a magazzino di materiale edilizio, chiusa con dei tavoloni che per impedire la penetrazione di persone dall'esterno, ma era un magazzino di sabbia, ghiaia, calce e cose di questo genere. È stato fatto il recupero, il restauro, ed è stata fra l'altro adibita anche per far delle feste all'interno, e quindi c'è tutta una celebrazione di feste, di carnevali che danno seguito a quella antica tradizione che aveva definito il trevigiano una marca gioiosa, espressione usata e purtroppo anche abusata, che deriva da un testo redatto in lingua franco-veneta, come dicono gli studiosi, ed è un documento del 1230 circa, che è un manoscritto conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia, e c'è questo autore che dice che la marque joyeuse del Trevisan Courtois. Sono termini quindi di derivazione francese, perché a Treviso nel Medioevo si parlava francese, era una città cosmopolita. In quei secoli, pensiamo, a Treviso era sorta addirittura un'università dove si insegnava diritto e medicina, quindi non era una città da poco, era al centro di traffici fluviali che arrivavano fino a Treviso con le imbarcazioni, e di là proseguivano con i carri verso l'entroterra continentale, e quindi anche le storie di Sant'Orsola si inseriscono in questa tradizione commerciale di cui Treviso è stata attiva. Ma tornando alla marca gioiosa, dicevo che questo siamo noi contemporanei che abbiamo tradotto questa Courtois con la parola cortese, gioiosa e amorosa. Evidentemente c'è una tradizione, ed era conosciuta dal Boccaccio, che ne parla nelle sue novelle, del rapporto tra gli amanti, che il Boccaccio in una delle sue novelle lo definisce danza trevigiana. Questo la dice lunga su che cosa si intendesse per marca amorosa. E poi si è costruita questa espressione marca gioiosa, amorosa, che qualcuno addirittura ha tentato di nobilitare trasformandola in una et, chissà, pensando di dare più nobiltà alla espressione, ma diciamolo come è, marca gioiosa e amorosa, diciamo. Comunque il periodo che va dall'inizio, dalla fine dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale, veramente è un periodo in cui ci sono molte di queste manifestazioni che riprendono la bella vita, naturalmente per chi se la poteva permettere, ma probabilmente anche le categorie più umili, più modeste, magari accontentandosi di mangiare le frittelle, di fare i crostoli, di fare quattro salti. Era una vita più semplice. In ballo, di cose molto più semplici di quanto non siano adesso. E con la Prima Guerra Mondiale, naturalmente, le cose sono cambiate radicalmente, perché la guerra si è combattuta proprio qui vicino a noi, quindi la Treviso è diventata retrovia del fronte, ed è stata bersaglio di minacce, fino a addirittura i bombardamenti che già allora avevano cominciato a colpire la nostra città di Treviso. Nel 1917 ci sono stati diversi edifici che sono stati distrutti dalle bombe sganciate dagli aerei nemici, ma la minaccia anche di occupazione era molto vicina, tant'è che la popolazione è cominciato ad abbandonare la città. La città era occupata, per le strade si vedevano soprattutto soldati militari che delle guarnigioni che costituivano, come dicevo, le retrovie del fronte, che è arrivato fino alle nostre porte, già anche al di qua del Piave, dove in alcuni punti l'esercito avversario ha rotto gli argini del Piave ed è arrivato a Nervesa, è arrivato a Fagarè, e queste località sono state notevolmente penalizzate. La gente fuggiva dalla città, anche la stessa amministrazione comunale di Treviso andò profuga a Pistoia. Addirittura. E molti, anche le opere d'arte furono in qualche maniera recuperate o trasportate a Venezia per metterle più al sicuro e per impedire che avvenissero dei danni e delle perdite nel nostro patrimonio artistico. La città era veramente una desolazione e ci è testimonianza quello che ha anche scritto, fra gli altri, il segretario comunale dell'epoca, che era Tito Garzoni, quel Tito Garzoni che poi ha lasciato parecchi delle sue disponibilità alla casa di ricovero, e uno di questi suoi edifici ne porta ancora il nome ed è a Tito Garzoni. Ma ripeto, e il vescovo Longhin, che era rimasto qua a visitare e a incoraggiare i suoi fedeli. Dopo la guerra, pensate per esempio che la scuola Gabelli in piazza Vittoria era sede del comando delle ferrovie militari, cioè tutta il movimento ferroviario delle truppe e dei rifornimenti era controllato da questo centro di smistamento che aveva sede nella scuola Gabelli, e c'è anche un ricordo su una lapide che le ricorda questo fatto. Questo per dire, insomma, come era proprio il centro, edifici, chiese trasformate in infermerie, edifici pubblici, scuole chiuse e trasformate in caserme. C'è stata proprio una trasformazione notevole fino alla fine della guerra, che dopo è cominciata tutta l'opera di ricostruzione e di recupero delle terre e delle anche chiese che erano state distrutte dalla guerra. E comincia un'era nuova, un'era con tutti i problemi che ci sono di questi militari che, ritornati dalla guerra, cosa fanno? E quindi c'è il problema dell'esubero di manodopera, della necessità di doverla utilizzare in qualche maniera, e fra le opere che vengono individuate c'è lo sguardo nelle paludi pontine, per esempio, dove i nostri trevigiani sono emigrati e hanno contribuito in maniera notevole alla bonifica di quei territori, anche città, naturalmente, che portano molte volte le strade, i nomi delle nostre terre. E dopo la prospettiva della colonia in Africa e quindi la guerra successiva del 1936 per la conquista di queste terre, oltre all'emigrazione all'estero che tanti dei nostri sono andati all'estero, E quindi c'è stata veramente una grossa crisi, che è stata poi anche politicamente cavalcata per il regime che allora governava. E poi c'è stata la seconda grande guerra, quella del 1940, che, anche se non aveva il fronte a Treviso, è diventata bersaglio dei bombardamenti in seguito al fatto che i rifornimenti, il fronte era sulla linea dell'Appennino, al centro dell'Appennino, ma i rifornimenti venivano soprattutto per via ferroviaria, naturalmente, non tanto dalla Francia, ma venivano dall'est Europa. E quindi la linea ferroviaria Tarvisio, Udine, Treviso, Mestre, Padova, Ferrara, Bologna era bersagliata, e i bombardamenti in queste città sono avvenuti presso poco negli stessi giorni di quello tragico di Treviso del 7 aprile 1944, perché bisognava tagliare le vie di rifornimento di dei tedeschi, che soprattutto il carburante che veniva dalla Romania, eccetera, e quindi c'è stata, oltretutto Treviso ha avuto la, diciamo, disgrazia di avere la città vicinissima alla stazione ferroviaria. Eh sì, è vero, perché Padova, per esempio, il centro cittadino è piuttosto scostato, così Bologna, così Ferrara, ma Treviso era così vicina che qui la precisione del tiro era tale che doveva dare delle zone di invasione al di fuori dei bersagli militari. Io, dottore, ho una curiosità. Prima parlava del Gabelli, no? La statua che c'è in Piazza Vittoria c'era già? O... Sì, quella è stata fatta dall'amministrazione provinciale ancora nell'Ottocento per la celebrazione dell'Unità d'Italia. Ho capito. Bene, anche per stasera abbiamo finito, dottore. Però ci ritroveremo ancora una prossima volta per altre belle chiacchierate molto istruttive sulla storia trevisana, veramente molto molto belle. Dottore, noi la ringraziamo di cuore. Grazie. E l'aspettiamo la prossima volta. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ringraziamo il dottor Tony Basso ed andiamo con la seconda canzone in programma, che è una canzone cantata da una giovane cantante che è Antonella Arancio e canterà I ricordi del cuore. Senti sola, manca il respiro e senti un nodo alla gola. Pensi che forse dovevi restare, ma niente da fare, ti va bene così. Passano i mesi e conti i giorni, le ore, gli incontri. Sono i ricordi del cuore. ed ecco a noi il secondo ospite della serata, che naturalmente abbiamo necessità di fare un riassunto delle puntate precedenti. Secondo ospite è Tiziano Spigariol, poeta, scrittore, attore, cantante, giornalista, artigiano polivalente, dalla sartoria alla lavorazione di oggetti in legno, in cuoio, pelle e corno, e a molto altro, cacciatore, cioè pescatore, contadino, raccoglitore, cultore della tradizione, è dagli anni 90 figura di spicco sia in Italia che all'estero. Fondatore e presidente della Congrega del Tabaro, nasce l'11 giugno di un anno indefinito. Le sue opere letterarie precedenti: La mia interiorità, Poeti seduttori, Pardir, Missioti, Mauro. Ed ecco noi Tiziano Spigariol. Buonasera Tiziano, caro. Buonasera a voi, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E bentornato, sai. Grazie. Sempre molto apprezzato. Molto, molto apprezzato. Madonna, ma sei importante, chi più ne ha più ne metta, no, qua, vero? Sono restato in cardenza pochi dei mesi e adesso con la bella stagione esplodi. Sono uscito. Esplode. Bene. Allora, stasera che cosa ci racconterai, di cosa ci parlerai? Beh, volevo parlarvi sempre a proposito di cultura e tradizione, sì, cui accennava il nostro caro amico Antonio. Sono presidente e fondatore della Congrega del Tabaro, che si pregia da tantissimi anni oramai, quasi tre lustri, di portare avanti. Allora oggi volevo parlarvi dei Rivieraschi del Sile. Oh. Rivieraschi del Sile, che erano contadini in pratica, che vivevano lungo le sponde del fiume Sile, e erano allevatori, erano agricoltori ed erano tradanti. Cioè ecco, erano da trar. Quindi sparare, demotrar, demo a caccia, si diceva una volta, termine arcaico, giustamente, sì. Erano cacciatori, erano pescatori ed erano raccoglitori di che cosa? Di tutte le bellezze, dico io, e le concessioni che madre natura nelle diverse stagioni offriva loro. Con questo tipo di molteplici attività naturali, cioè rivolte alla natura, vivevano. Cito alcuni esempi banalissimi che oggi sicuramente faranno sorridere. Per esempio, dalle canne del palude, le note in dialetto canee, che hanno un pennacchio sopra, bene, raccoglievano questi pennacchi e li vendevano, oltre che se li facevano in proprio, diciamo, per fare scopini, cioè scope per la polvere. Ah. Ecco, una volta si toglieva la polvere dai mobili con gli scopini, dei canei, i pennacchi dei canei del Poiù. Questa era un'attività, diciamo, integrativa allo scarno reddito agricolo che il fiume donava loro. Ma dirò di più. Chi non aveva nelle stalle dei buoi, dei cavalli, eccetera, per cui non poteva avere delle tame con il quale concimare il terreno da coltivare, prendeva con a forca storta, cioè con una forca, diciamo, rigirata verso il manico, verso se stessa, andavano con la barca a prendere le alghe della palude. Però, con le alghe della palude concimavano il terreno. Eh sì, perché le alghe devono aver tante proprietà. Che sono state naturalmente riscoperte adesso come naturalmente un concime di tutto rispetto. Quindi vediamo la genialità e l'ingegno, diciamo, di un tempo. La caccia e la pesca era integrazione, rivalutazione dello spirito, ma soprattutto integrazione della dispensa. Eh sì, questo... a questo proposito del mio ultimo libro Tradanti sì. Appunto. Volevo leggervi Piazza Editore Silea. Sì, volevo leggervi un brevissimo racconto. Adesso lo troviamo, eccolo qua. Giorgio e i lucci di San Valentino. Torniamo indietro un po' a San Valentino. Esatto. A San Valentino e lusso mena il coin. Già, dopo l'estate di San Martino, 11 novembre, timidi tepori novembrini con sprazzi di sole e dopo i rigidi giorni della merla di pieno inverno, verso metà febbraio, quindi non molto lontano da oggi, tiepidi raggi di sole riscaldano l'acqua e vite rinascono per l'imminente primavera. Fiorir d'amori. E il luccio, pesce predatore, incomincia la frega. Giorgio era un grande pescatore, d'acqua dolce naturalmente. Il mare noi non l'avevamo mai visto e della pesca conosceva tutti i segreti. Usciva di buon'ora, zaino in spalla, due baffoni alla beppone, poche provviste nello zaino. Co se pesca non se magna, co se magna non se pesca. Questo il suo motto. Difatti la sera, quando rincasava, salvati tavola. La sua arma segreta? Semplicemente dei cappi in cordino d'acciaio, sottili ma forti, robusti, veloci a chiudersi, fabbricazione artigianale, manco a dirlo, rigorosamente made in Giorgio. Che bello, simpatico. Perlustrava minuziosamente, chiedo scusa, sempre con trombra, rigagnoli, fossati, corsi d'acqua corrente, osservando l'ambiente, i giri d'acqua, le code delle alghe, sempre attento a cogliere il benché minimo movimento in quell'immobilità più che assoluta, tranne quel codino che si agitava, quasi come parte estranea di quel tutto apparentemente inamovibile. Individuata la cosa, ripeteva i percorsi sul mezzogiorno, quando quel poco sole poteva infondere tutto il suo calore. Avvistata la preda, dalla riva si accostava da dietro, infilando il cappio in cordino d'acciaio largo dalla coda per arrivare fino a metà del corpo dell'animale. Uno strattone e via! Il cappio rapido si chiudeva all'istante, portando in un baleno il luccio fuori dall'acqua, sulla riva. Un colpo in testa, morto, nello zaino. Tale era la scaltrezza di quell'uomo in questa arte che, a vederlo così, seduto nella seggiola a dondolo sotto al portico di casa, nessuno l'avrebbe riconosciuto. Pescava solo lucci sopra i 3 chili. Del resto, non si curava. Spero. Annate record e cene memorabili, ricordo. Ecco, questo, diciamo, in un episodio breve, se vogliamo, un breve capitolo di questo libro Tradanti, sta a dimostrare, a far vedere come le giornate in quel periodo si muovevano in questo modo, procurando il cibo necessario poi alla mensa. Il luccio non mi ricordo di averlo mai assaggiato. Allora, noi abbiamo in Veneto delle specialità. Sì. A parte il luccio alla brace, abbiamo un luccio insalata, fatto a mo' di baccalà insalata, cioè un luccio... Sì. Lessato e poi condito e poi ovviamente spolpato, perché il luccio ha delle spine molto grandi e quindi, diciamo, bisogna fare grande attenzione nel mangiare questo animale. Certo, certo. e viene presentato come il baccalà condito con un po' di pepe, un po' di sale, olio, prezzemolo e un goccio di limone, accompagnato, e questa è la sua stagione, al mitico oramai radicchio Verdon da Cortella. È un piatto assolutamente unico e invidiabile. Per queste sere. Quindi è un recupero anche questo della tradizione. È un recupero della tradizione. Ma non so se la mangeranno ancora, forse sì. Ah, beh, se chi lo conosce presumo proprio di sì. Diciamo che luci oramai ce ne sono molto pochi. Purtroppo le cause o le concause sono sicuramente l'inquinamento ed altri fattori anomali e analoghi, nuovi arrivi che fanno in modo che questo pesce predatore abbia nei nostri territori una scarsa diffusione oramai, e comunque faccia molto fatica ad arrivare a pesi interessanti. Quindi Giorgio non li avrebbe degnati di uno sguardo. Giorgio, se fosse ancora vivo, non li avrebbe degnati. Ci saranno i lucetti piccoli. Sì. Va bene, Tiziano, un attimo. Ci sono rimasti i lucetti e le lucciole d'estate. Ma questa è un'altra storia. Sì, appunto. Certo. Ci fermiamo un momento per andare ad ascoltare la terza canzone, che è Fumo negli occhi. Quanto fumo abbiamo negli occhi? Fumo e niente più, questo grande amore. Ti accorgerai studio e ridiamo la parola al nostro Tiziano. Ecco, allora si parlava di cucina tradizionale. Noi legati al pesce d'acqua dolce abbiamo, perché abbiamo una grande varietà di pesce d'acqua dolce nelle nostre acque, abbiamo una serie, non dico infinita, ma ragguardevole di ricette. Voglio solo ricordare che noi, oltre alla mitica trota del Sile, abbiamo le carpe, abbiamo le anguille. E il go? Abbiamo, no, il go è un pesce di mare. Ah, sì? Come d'acqua dolce. Abbiamo le tinche, abbiamo i pesci gatti, abbiamo le reine o le scardole. Pensa che abbiamo una cosa importantissima legata alla scardola, che è un pesce considerato da tutti minore, ha diverse spine, eccetera, per cui le nostre pazienti nonne pulivano perfettamente tutto questo pesce, avendo solamente cura di tenere la carne, e facevano delle polpette. E sono buone le polpette facevano di pesce? Facevano polpette di pesce. Eccezionale. Sì, sono buonissime. Una cosa che noi abbiamo ripreso, rifatto come associazione, come congrega del Tabaro, in alcune cene e manifestazioni che facciamo di promozione del pesce d'acqua dolce, esatto. E veramente nessuno aveva ricordo che si facesse in questo modo di polpette di pesce. Quindi c'è ancora spazio, ci sono ancora possibilità di recupero di altre tradizioni, eccetera. Basta semplicemente avere la pazienza e l'amore per il passato, sì, mi pare. Ecco. Sì. Scusa Tiziano, go, il pesce go, è una parola dialettale o ha una... Tu lo sai che io sono un... mi hanno definito l'altro, mi hanno regalato un libro l'altro giorno, sì, e mi hanno fatto una dedica, che è questa: a Tiziano Spigariol, che pensa in dialetto, che scrive in dialetto e che soprattutto vive in dialetto. Eccola, questo è un grande complimento, secondo sì, me. Sì. È proprio lì, e ti hanno regalato un libro in dialetto? No, mi hanno regalato un dizionario del dialetto, diciamo, vicentino, che è di una certa zona, la Valle Ogra, che contiene non solo tutti i termini propri delle attività, delle arti e dei mestieri, e degli oggetti utilizzati in queste arti e mestieri, ma ha anche una descrizione grafica degli oggetti stessi. Ah, splendido. È un lavoro che, diciamo, è costato più di 10 anni di ricerca. Mamma mia. Ci vuole e costanza. Questi ricercatori, che in parte erano professori universitari e in parte volontari del popolo, posso dire, posso usare questa parola? Per carità, è ancora permesso. È meglio. Hanno fatto un lavoro di ricerca casa per casa nell'attività, diciamo, e nella vita degli ultimi contadini, degli ultimi artigiani che restavano in questa zona per che continuavano a lavorare con questi sistemi. Prima che tutto scomparisse nella modernità. Prima che l'uniformità ci avvolgesse nella sua cappa malefica e ci dicesse che non abbiamo più identità. Lo stiamo scoprendo, in effetti. Una volta, Tiziano, mangiare, per esempio, il baccalà era un mangiare da poveretti, insomma, no? Come si dice? Sì, adesso ti costa l'occhio della testa. Esatto, come molte altre cose, quando capiscono che possono valere un business, è chiaro che il prezzo lievita. Come la pasta ai fagioli, domanda, le rame. Esatto, cioè, esatto. So che da noi a Mantova i contadini che andavano proprio a lavorare i campi e la sera mangiavano polenta e rane. Che non andavano a comprare, ma che... che le trovavano, che le pescavano. Col ciaro a carburo. C'è anche una canzone che proprio nel 46 che parlava della pesca delle rane. Forse voi non la ricordate. E così, altre prelibatezze? Diciamo che le prelibatezze, io ho una filosofia sulle prelibatezze. Bisogna assaggiarle. Bisognerebbe che chi preposto, oltre ai soliti volontari, diciamo, del popolo, proponesse, portasse, arricchisse le proposte sociali per far conoscere, perché, come l'abbiamo già citato ancora, ma è sempre validissima questa citazione, come diceva il povero Giorgio Gaber, potessi mangiare un'idea avrei fatto davvero la mia rivoluzione. Sì, allora sì. Io credo che, al di là di tutte le descrizioni più o meno, insomma, infiorate e fantasiose, complete, magari, sì. Fantasiose, eccetera, le prelibatezze vadano assaggiate per rendersi conto del loro valore, perché è lo stomaco che poi guida il cervello, certo. Nelle valutazioni. Evidentemente, un buon sì. Pasto invernale, da noi, perlomeno anche da voi, penso, erano le verze con la salsiccia o col cotechino. O con le costicine. O con le costicine, anche. Beh, quelle non mi piacciono. Verze a soffegare. Esatto. Verze a soffegare, sì. Cosiddette. Va bene, direi che eventualmente potremmo... Annuncia tu la canzone. La prossima canzone è un duetto di Minghi e Mietta, una famosa canzone dal titolo Vattene amore. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai, ci chiederemo come mai. Il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò rotolina amorosa e tu, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi aggolerà, il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me. La testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. E poi, ancora non lo so. Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no, sorridente truffatore. Vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai. Vattene o saranno guai, e piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà, il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così. Ancora ti chiamerò rotolina amorosa e tu, il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche dedicata all'uomo del tabaro. Dal libro Tradanti vorrei leggere la prefazione di Marco Ramanzini. Ho avuto il piacere di conoscere Tiziano Spigarioli anni fa attraverso la Congrega del Tabaro, si scrive proprio così, con una R sola, di cui è fondatore e presidente. L'associazione non ha fini pubblicitari o commerciali, ma nasce proprio dalla volontà del suo ideatore di recuperare antiche tradizioni legate appunto all'abbigliamento, ma anche alla buona cucina e al buon vivere. Quello fatto di socialità, amicizia, valori solidi e radici profonde. Uno stile di vita ispirato alle sane tradizioni della sua terra, che sono poi quelle di tutti coloro che, ovunque posti in questa palla che gira nell'universo, hanno vissuto traendo il proprio nutrimento fisico, ma anche morale e spirituale, dalla campagna e dalla ruralità nel suo complesso. Di queste parla nei racconti raccolti in queste pagine L'uomo del tabaro, narrandoci con uno stile semplice e discorsivo storie di famiglia senza tempo, quasi fossimo seduti al tavolo della cucina davanti a un bicchiere di vino e una fetta di polenta arrostita sul grande camino che ci riscalda dopo una mattinata di caccia. Storie che, mutati accenti e nomi, potrebbero essere le nostre e che quindi non facciamo fatica ad ascoltare e ad impadronircene. Il soggetto non è solo la caccia, ma tutto un modo di intendere la vita, una visione dove l'attività venatoria è parte integrante della quotidianità, una forma di raccolta fra le tante, dalla pesca ai funghi, dal far legna a raccogliere le lumache fino a fare l'orto. Una convivenza con la natura che, come scrive Tiziano, implica conoscenza e rispetto dei ritmi e dei cicli delle stagioni. Così come di coloro, uomini o animali che siano, che ci accompagnano lungo il cammino della nostra vita. Il narrare è un modo di trasmettere queste nozioni, spesso semplici, mai banali. E qui lo si fa attraverso le storie di famiglia, dai genitori a nonno Guido e nonna Antonia, e via via per tutta una serie di zii di una famiglia vecchia maniera, come tutti noi che abbiamo raggiunto gli Anta, fossero anche solo i primi, abbiamo conosciuto e sappiamo comprendere. Storie di caccia, appunto, di pesca e di raccolta, di cani e di amici, in una parola, di vita, perché tradanti, cacciatori in senso stretto, ma più genericamente raccoglitori, si nasce per quello spirito del fare, dell'approvvigionarsi, dell'essere parte della natura e dell'andarne fieri, per poter un giorno, come lo zio Siro, ringraziare Dio per questa vita, per questa fortuna infinita di vivere la caccia e tutto quello che rappresenta, per tutti i doni immeritati che il creato ci concede. Bella. E direi che non si poteva dir meglio. Molto bella. Lo chiedo all'autore. Molto bella. Sì, Marco ha colto nel segno, ha fatto una bella presentazione, ma soprattutto una presentazione che è un po' la vita di tutti noi tradanti, coloro i quali appunto si avvicinano al naturale, ne fanno parte e ne sono assolutamente fieri. Volevo dire anche che in tutta questa vita, in tutta questo scorrere di passioni, di tensioni, di gioie, di dolori, di sapere, abbiamo sicuramente avuto ognuno di noi delle dipartite, sì. Delle dipartite che per aspetti diversi ci hanno toccato e che continuano, diciamo, purtroppo e per fortuna ad essere parte di noi. Una dipartita è sempre un pezzo di vita che se ne va, perché non so, anche se ti manca una cara amica, è un pezzo della tua, certo, tua storia, insomma. Ecco. E io però non per diciamo sfatare nessun dolore, ma per lenire semplicemente ho posto in essere queste due riflessioni. Le avversità sono solo piccoli intoppi in un grande cammino. E la seconda, che segue, dice: bisogna avere sempre una speranza, sopra un'altra speranza. Le cose possono sempre succedere. È vero questo, che bisogna sempre avere speranza sopra un'altra speranza, perché se non hai speranza... Esatto, la speranza poi c'è anche un altro modo, un altro detto dell'uomo del Tabarro che mi ha molto colpito, quello che dice: voemo se ben finché siamo in vita, perché niente se par sempre, nianca a memoria. Ecco, una spiegazione su questo andrebbe, anche perché noi tendiamo a dare un po' dei valori, a circoscrivere, a settorializzare, eccetera. Sì, nasce dal fatto che mia nonna Antonia mi diceva sin da piccolo: voeme ben finché son, perché poi fiori o altro, nelle tombe più o meno ricche, più o meno addobbate, non servono a chi è già morto, se non come forma di rispetto, come forma di ricordo, come forma un po' anche di apparire. Ecco, bravo. bravo. Quello che dobbiamo fare è veramente, umilmente, amorevolmente, amare quando si è in vita. Finché si è in vita e finché si ha la testa lucida, che si è, perché in grado dice di... niente dura per sempre, neanche a memoria. Neanche a memoria. E noi siamo testimoni che tante volte ad una certa età neanche la memoria ci sorregge, assiste, più. Certo, certo, per cui finché siamo vivi, finché siamo nel pieno delle facoltà, facciamolo perché... amiamo il nostro prossimo, sì. E amiamo soprattutto noi stessi. Sì, questa è una cosa che sicuramente io concordo su questo. Anch'io. C'è un'altra, un'ultima cosa che è, diciamo, si trova sulla... Più che intimistica, rivolta al sociale, cioè esatto, a tutte le persone. Infatti che è sul risvolto, l'ultimo risvolto di copertina. Dal popolo al popolo è arrivata l'ora di farsi vedere. Anche questo nutre praticamente un fondo di, come dire, di riscatto sociale, di riscatto di uno spirito che sembrava morto e sepolto con il consumismo, o sbaglio? No, hai perfettamente ragione, ma prima di tutto vuole dire voler bene a se stessi significa valorizzare se stessi in giusta maniera, in giusta misura, coscienti di quello che siamo e di quello che sappiamo fare, che vuol dire anche di quello che sappiamo donare. Sì. E quello che sappiamo anche ricevere dagli altri, nel senso capire anche gli altri. Certo, una cosa che noi non facciamo più abitualmente è quello di ascoltare gli altri. Ecco, l'ascoltare è una gran cosa. Io trovo che questa nostra società sia diventata un insieme di individui. Una volta eravamo comunità, una volta eravamo una società unita, adesso siamo un'atomizzazione ha subito la società nostra. L'epoca contadina, per quanto misera, per quanto povera, eccetera, era tutto un'altra questione. Certo. Ma io vorrei lasciare i nostri radioascoltatori con un pensiero. Non è successo niente, abbiamo solo perso 60 anni. Siamo ancora in tempo, per recuperare. Comunque la prossima volta, Tiziano, mi piacerebbe che ci facessi ascoltare qualche monologo tuo. Lo faremo sicuramente. Sì, lo faremo a disposizione. Lo faremo sicuramente, perché è sempre un qualcosa di molto profondo. Appunto. Va bene. E non ci resta altro che naturalmente dare appuntamento alla prossima volta alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, ringraziandoli per la loro pazienza. Grazie Tiziano. Grazie Tiziano. Alla prossima volta. E grazie a te Antonio. Grazie a voi. E ai nostri ascoltatori cosa diciamo? Ci sentiamo domenica prossima, a Dio piacendo. E come solito, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.